Sono le 13. GR24, il sole 24 ore. Riunione di governo sulla finanziaria, voci di tensioni fra Tremonti e i ministri per i tagli. La BCE Italia e Spagna in ritardo sulla capacità produttiva, in Grecia finisce in violenza la protesta sull'Acropoli. Fuori anche l'ultimo minatore, l'incubo del Cile è finito, inizia la festa. Scontri a Genova, 19 arresti in Serbia, Maroni, le autorità di Belgrado hanno sottovalutato. Una buona giornata da Simone Spezia e dalla redazione. In apertura dunque il Consiglio dei Ministri di oggi, ci colleghiamo in diretta con Palazzo Chigi e con Alessandra Schepisi. Alessandra. Sì, buongiorno. Un Consiglio dei Ministri carico di tensione, quello che sta cominciando in questi minuti. Sul tavolo la vecchia finanziaria, ora legge di stabilità, una finanziaria totalmente tabellare, assicurato ieri Tremonti, cioè contenente tabelle con gli effetti finanziari del decreto varato a luglio, in pratica senza ulteriori contrazioni di spesa. Ma non è così, sostengono alcuni ministri, secondo i quali nelle carte di Tremonti ci sarebbero tagli ben oltre il 10% previsto nella manovra di luglio. Tre ministri che battono cassa, quello del l'istruzione Gelmini, significativa infatti la vicenda della riforma dell'università che nei fatti è stata bloccata alla Camera, rinviata a dopo la sessione di bilancio, perché lo stesso Ministero dell'Economia nella relazione tecnica sugli emendamenti approvato in Commissione ha ritenuto che non ci fossero le necessarie coperture. La discussione in CDM quindi non si preannuncia serena, con i responsabili dei dicasteri, dalla Gelmini a Bondi, alla Prestigiacomo, ad altri che chiederanno risorse per le loro attività, e Tremonti che cercherà di tenere i cordoni della borsa. Da Palazzo Chigi per il momento è tutto, buona linea. Grazie dunque ad Alessandra Schepisi, che già ci parlava della riforma dell'università. Nonostante l'appuntamento sia saltato, non è saltato quello tra studenti e ricercatori che protestano contro la riforma stessa. Ha raccolto le loro voci la collega di Radio Coro Il Sole 24 Ore, Teresa Trillò. Siamo qui un poco per festeggiare e un poco per confermare che la protesta va avanti. Questo rinvio secondo noi è l'unico modo esistente al momento per ripensare tutta la riforma e per fare una riforma finalmente condivisa con tutte le componenti dell'università italiana. Servono almeno 5 miliardi perché dobbiamo rimettere a posto i bilanci delle università, dobbiamo risolvere il problema del riconoscimento del ruolo di professore e ricercatori universitari, abbiamo bisogno di risolvere il problema del precariato degli studenti e dare una certezza alla tenure track che è prevista nel disegno di legge. Siamo qua per manifestare perché venga valutata la figura del ricercatore e venga permessa agli studenti di diventare ricercatori qualora lo vogliano. E ora in Cile, una festa infinita, rumorosa, colorata, piena di gioia, quello che l'intero paese ha celebrato oggi, quando anche l'ultimo dei 33 minatori di San José è uscito in superficie. L'ultimo è stato il capoturno e leader del gruppo fin dal giorno del crollo, Luis Urzúa, 54 anni. Appena uscito è stato avvolto in una bandiera cilena e scherzosamente ha detto: «Ho fatto un turno di 70 giorni, un po' troppo lungo». Il 5 agosto, mentre scendeva come capoturno in miniera, Luis Urzúa non sapeva che quello sarebbe stato il giorno in cui avrebbe dimostrato a se stesso, ai suoi compagni e poi al mondo cosa significhi essere un vero comandante. Urzúa è il capitano sognato dai bambini, puro di cuore, rapido nell'azione, giusto, coraggioso, capace di assumersi sulle spalle tutte le responsabilità e andare avanti. È stato l'ultimo a lasciare la miniera cilena oggi. Ha chiesto lui di essere lasciato per ultimo e fino a un istante prima di uscire ha dato coraggio a chi da fuori aspettava. Nella miniera lavorava da soli 2 mesi, ma era già amato come un padre dagli altri ragazzi. È stato lui a razionare cibo e speranza nei primi 17 giorni di completo isolamento dal mondo esterno. Una persona per bene, il viso tondo, le rughe a disegnare una bontà che non si può nascondere. Un uomo maturo, capace di dare disciplina e calma. Anche i tecnici della NASA, arrivati a San José, se ne erano accorti e lo avevano individuato come leader. Ma era stata la vita a metterlo alla prova sin da piccolo. Orfano di padre, ha aiutato a crescere 6 tra fratelli e sorelle. Ora ha 2 figlie, Luis, e un intero paese, il Cile, che si riconosce in lui, che crede che la disciplina, la fatica, la resistenza, l'impegno e la generosità siano valori su cui puntare. Per questo il Cile oggi riemerge assieme ai suoi 33 minatori. Libertà l'ho vista svegliarsi ogni volta. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Di 8 tifosi serbi arrestati e 47 denunciati a piede libero il bilancio finale diramato oggi dalla questura di Genova sulla notte di follia della tifoseria slava al Ferraris. Per 9 supporter che erano stati sottoposti a fermo ed identificazione la notte degli incidenti, le misure cautelari sono state tramutate in denunce a piede libero. In totale il numero dei tifosi segnalati dunque a piede libero è di 45. Intanto la polizia serba ha arrestato 19 hooligans proprio al confine. Polemiche intanto sulla gestione della sicurezza e soprattutto sullo scambio di informazioni tra le autorità di Belgrado e quelle italiane. Poco fa il ministro dell'interno Roberto Maroni dice che da parte dell'Interpol di Belgrado c'è stata una sottovalutazione, così il sottosegretario all'interno Alfredo Mantovano, intervistato questa mattina da Alessandro Milan. Un lavoro fatto con estrema intelligenza e responsabilità. Quando ci sono degli assembramenti delle persone che sono uno sopra l'altro, sfido chiunque a non prendere le decisioni più adeguate al caso concreto, che consistono nel far defluire il prima possibile chi si trova in una situazione del genere. Cioè la cosiddetta linea morbida, lei dice, è stata mantenuta questa linea? No, non è una linea morbida, è una linea di intelligenza. Se delle persone rischiano di morire perché schiacciate, credo che la cosa più normale, né morbida né dura, sia quella di impedire che ciò avvenga. Ieri avevamo il sindaco di Genova a questi stessi microfoni e ha detto abbiamo la tessera del tifoso studiata dal Viminale che per controllare le partite, e poi però quando succedono eventi internazionali non si riesce a fermare una cosa del genere. Allora o che senso ha, o come possiamo controllare tutto in Italia e non impedire per esempio che entrassero queste persone nel nostro paese? Ma ho molto rispetto per l'intelligenza di chi fa questa obiezione, che mi sembra un'obiezione molto retorica. La testa del tifoso ha una validità al territorio nazionale. Se la testa del tifoso ci fosse per tutte le competizioni europee, fatti del genere non accadrebbero. Chi fa obiezioni del genere dovrebbe essere coerente, arrivare fino in fondo e dire aboliamo il trattato di Schengen. Se è stato impossibile il controllo alla frontiera è perché la Serbia è entrata recentemente nel regime dei visti Schengen e perché tra la Serbia e l'Italia non c'è una linea di confine, ma ci sono dei paesi intermedi a cui evidentemente competeva, se l'avessero ritenuto, se avessero avuto del sentore di rischio, fare dei controlli, ma poiché non c'erano neanche nei loro confronti informazioni di questo tipo, i controlli non sono stati fatti. E ora parliamo di una donna di 52 anni che ha subito un eccezionale intervento di doppio trapianto delle mani all'ospedale San Gerardo di Monza. Alice Cason ha intervistato e raggiunto poco fa il chirurgo plastico Massimo Del Bene, che ha eseguito appunto l'operazione. Sentiamo che cosa le ha raccontato. 2 giorni fa nell'ospedale San Gerardo di Monza è stato effettuato il primo trapianto in Italia bilaterale di mani in una paziente con postumi di amputazione sia delle mani che dei piedi in seguito a una sepsi, una infezione generalizzata. Nel 2007 la paziente è stata amputata. Nel 2008 la paziente ha espresso il desiderio di partecipare a un progetto di trapianto bilaterale di mani e da allora l'abbiamo preparata. Nel 2009 abbiamo avuto il consenso dal Centro Nazionale Trapianti di Roma per poter effettuare il trapianto e finalmente 2 giorni fa, 48 ore o sono, abbiamo effettuato il trapianto da una donatrice di 58 anni. Il trapianto è andato bene, in questo momento le mani sono perfuse, rivascolarizzate e per adesso non abbiamo problemi. È chiaro che sono interventi con una complessità soprattutto post-operatoria e quindi prima di sciogliere la prognosi passeranno diversi giorni. È morta questa notte a Roma Carla Del Poggio, nome d'arte di Maria Luigia Attanasio, 85 anni, attrice di cinema e teatro famosa negli anni 40 e 50, moglie di Alberto Lattuada, che l'ha diretta in tanti film, fra cui Luci del Varietà. Napoletana, dopo aver coltivato il sogno di diventare ballerina, la Del Poggio frequentò il Centro Sperimentale di Cinematografia, dove venne notata da Vittorio De Sica, che la fece debuttare come protagonista a 15 anni in Maddalena Zero in Condotta. L'incontro decisivo fu appunto quello con Lattuada, che sposò nel 45 e da cui ebbe 2 figli. Le sue doti drammatiche si rivelarono in film come Caccia tragica e Roma ore 11 di Giuseppe De Santis o come Gioventù perduta di Pietro Germi, a fianco di grandi attori come Massimo Girotti e Jacques Cernat. Stavamo bevendo la tua salute, ti dispiace? Figurati, è una gioia per me vederti fuggare in camera mia. Scusate. Esci? Sì. Stefano. Questa è la cravatta di Maria. I funerali di Chiara del Poggio si svolgeranno domani alle 15 nella Chiesa degli Artisti a Piazza del Popolo a Roma. E siamo al nuovo calendario Pirelli che presenta una novità interessante. Novità per il calendario Pirelli firmato da Karl Lagerfeld. L'edizione 2011, in mezzo alle solite bellissime top model, vedrà immortalati fra i mesi dell'anno anche due ai tanti modelli uomini svestiti come da tradizione. Uno sarà il modello musa dello stilista Baptiste Giabiconi, che, se non fosse diventato uno dei volti più importanti della moda, avrebbe voluto fondare una catena di pizzeria a domicilio. L'altro modello, immortalato da Cal, come viene chiamato in gergo il mitico calendario, la cui edizione 2011 verrà presentata a novembre a Mosca, sarà lo scultore americano Jake Davis. Tra la quindicina di modelle del cast, oltre all'ancora piacente attrice cinquantenne Julianne Moore, anche l'italiana Bianca Balti, ragazza copertina del primo numero di Velvet. Lagerfeld ha dovuto incassare invece il rifiuto di Vanessa Paradis, nota cantante, attrice e compagna di Johnny Depp. Intanto il calendario Pirelli diventa anche un film. La sua storia, dal 64 al 2010, sono raccontati per la prima volta nel documentario intitolato La saga del calendario Pirelli, realizzato da Emmanuel Lebert, e verrà trasmesso il 13 novembre sul canale francese Paris Première. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Le 13:06 minuti e 10 secondi. Nella prima parte del giornale radio vi abbiamo parlato della finanziaria che è in corso di discussione in sede di Consiglio dei Ministri, e si parla di tensioni tra i titolari dei dicasteri, tra i titolari di alcuni dicasteri, il ministro dell'economia Giulio Tremonti, per presunti nuovi tagli. Nel frattempo è in corso proprio a Piazza Montecitorio la protesta per la riforma dell'università, che proprio per coperture di bilancio è saltata in questo momento dalla discussione alla Camera. Abbiamo parlato della vicenda del Cile, è uscito fuori anche l'ultimo minatore ed è iniziata naturalmente la festa in Cile, e poi abbiamo parlato della vicenda della guerriglia che si è scatenata subito prima di Italia-Serbia e anche subito dopo. Ci sono stati 19 arresti in Serbia, ha detto il ministro dell'Interno Roberto Maroni che le autorità di Belgrado, in particolare l'Interpol, hanno sottovalutato tutto. Vi segnaliamo tra l'altro che è stata appena diffusa una dichiarazione di uno degli arrestati, Ivan Bogdanov, che ha sostenuto che è stata una protesta contro la federazione di calcio serba. Adesso torniamo all'economia con il bollettino della Banca Centrale Europea. La Banca Centrale Europea è cautamente ottimista sulle prospettive economiche della zona euro. Nel suo bollettino mensile di ottobre, l'Istituto Monetario prevede una crescita moderata nei prossimi mesi, nonostante il rallentamento degli ultimi tempi. Il recupero della capacità produttiva è avvenuto con successo in molti paesi, tra cui la Germania, dopo la crisi del 2009. Italia e Spagna, invece, sono ancora in ritardo. Mentre negli Stati Uniti e in Giappone sono state annunciate o preannunciate nuove misure per garantire liquidità all'economia, la BCE non ha nessuna intenzione di seguire questa strada. Ciò detto, il costo del denaro è ritenuto appropriato e non c'è alcuna decisione di abbandonare le operazioni di rifinanziamento a tasso fisso e ad ammontare illimitato utilizzate finora per aiutare il settore bancario. Beda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Francoforte. E dopo dunque il servizio da Francoforte ci spostiamo sui mercati per capire come stanno andando le cose sul mercato dei cambi. Oggi l'euro ha toccato quota 1,41, poi ha ritracciato, ma gli occhi, i riflettori sono puntati sul dollaro. Deborah Rosciani. Sì, dollaro che continua a scendere e continua ancora a confermare i suoi minimi, soprattutto nei confronti dello yen, minimi da 15 anni a questa parte, mentre il suo minimo rispetto alla moneta unica europea è da 9 mesi a questa parte. Avevi detto oltre la soglia di 1,41, 1,41,22, esattamente il cross è toccato per ritracciare adesso 1,40,63. Che cosa ha dato il là a questi movimenti questa mattina, movimenti che per la verità sono già in corso da diverse settimane? La mossa a sorpresa decisa dalla Banca Centrale di Singapore, che ha ampliato la fascia di oscillazione della valuta locale, il dollaro di Singapore, nei confronti di un paniere di valute per consentire una rivalutazione modesta e graduale della propria divisa. Una decisione di politica monetaria restrittiva restrittiva che è venuta dopo che proprio la stessa che Singapore ha annunciato un'economia in contrazione ad un tasso annuo del 19,8% nel terzo trimestre. Simone pensa, questi si lamentano perché stanno crescendo di appena il 20% e hanno deluso un po' le attese degli analisti che si aspettavano una flessione al 17%. La cosa interessante è che questa azione potrebbe essere presa ad esempio anche da altre azioni asiatiche come la Cina, in vista dei meeting dei ministri delle finanze del G20 in Corea il 22 e il 23 ottobre e anche del vertice dei capi di Stato e di Governo del G20 dell'11 e del 12 novembre. Segnalo che tutto questo ha portato anche l'oro al suo nuovo massimo, 1386,90 dollari l'oncia. L'oro, il petrolio si sta riportando sugli 85 dollari al barile, quindi tutto un movimento che vale la pena monitorare nei prossimi giorni. Simone. Sì, grazie Deborah, grazie a Deborah Rosciani per questi aggiornamenti. Abbiamo parlato di paesi che crescono al 20%, parliamo di un paese che certamente non lo fa ed è la Grecia, dove oggi ci sono stati altri episodi dettati dalla tensione sociale innescata dai provvedimenti di austerity. La polizia greca ha usato la forza e lanciato lacrimogeni per disperdere un centinaio di lavoratori con contratto a termine che da 24 ore bloccavano l'accesso all'Acropoli, il monumento più famoso della Grecia. Gli agenti hanno fatto irruzione da un'entrata laterale e hanno caricato i manifestanti che contestavano il piano di austerità voluto fortissimamente dal premier greco Giorgio Papandreou e dal suo ministro del tesoro Papa Costantino. C'è stato un tentativo di resistenza e 5 precari sono stati fermati. I lavoratori avevano bloccato l'entrata principale al monumento e avevano cambiato la serratura del cancello, sostenendo di non essere stati pagati per 2 anni. La Grecia ha una fortissima disoccupazione e addirittura una disoccupazione giovanile che più alta in Europa, raggiunge il 38%. L'organico dei lavoratori con contratti a termine nell'ambito dell'accordo con UE e Fondo Monetario per ridurre il deficit è parte dell'accordo integrale e quindi ormai il governo non può fare marcia indietro. Vittorio D'Arolda, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E torniamo all'Italia con la cerimonia di insediamento per il nuovo Avvocato Generale dello Stato, Vincenzo Miglietta. Sì, buongiorno, un discorso di insediamento per il nuovo Avvocato Generale dello Stato Ignazio Caramazza, alla presenza tra gli altri del Presidente della Repubblica Napolitano e del Presidente della Camera Fini. Caramazza denuncia la preoccupante forbice esistente nell'Avvocatura dello Stato fra aumento della quantità di affari e forza lavoro disponibile, mentre il ruolo organico, dice l'Avvocato dello Stato, si è incrementato dagli anni 80 del 34%, gli impegni dell'Avvocatura sono cresciuti di oltre il 400%. A fronte di questo sbilanciamento però il servizio è economico ed efficiente. Ogni causa costa allo Stato in media 785 euro. Certo, molto resta ancora da fare, spiega l'Avvocato Generale dello Stato. È necessario dare maggiore impulso alla svolta informatica, all'accesso dei giovani avvocati e alla procedura per il concorso a procuratore dello Stato. Il capitolo federalismo, quindi la crescita delle autonomie, dice Caramazza, porterà ad un sensibile mutamento della fisionomia del contenzioso pubblico. L'Avvocatura avrà un ruolo sempre più importante di mediazione tra Stato e Regioni, commenta infine il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Letta. E da Roma è tutto. Grazie dunque a Vincenzo Miglietta. 20 di ripresa. L'Italia che riparte. 2009 è stato un anno di crisi che però è stato anche un anno di opportunità. Massimo Pavin, ingegnere, è il titolare di Sirmax, azienda padovana che produce e commercializza materie plastiche. 160 persone che lavorano in 3 stabilimenti in Italia, 1 in Polonia e 4 uffici commerciali in Europa. Dai 135 milioni di fatturato 2008, Sirmax è scesa a 100 nel 2009 per poi risalire a 140 quest'anno. La crisi è stata, secondo Pavin, un volano di ripresa. Ci siamo trovati ad avere dei competitors che sono mancati, che hanno chiuso, altri hanno venduto. Ne abbiamo tratto anche dei vantaggi sul mercato prendendo delle quote che permanevano altrui. Fra le opportunità della crisi anche la razionalizzazione, sempre secondo Pavin. Noi abbiamo visto che nel 2010 rispetto al 2009, con 30 persone in meno, 23 operai e 7 impiegati, stiamo producendo proprio chili 30% in più. Quindi ci siamo anche chiesti certe volte se servono proprio le crisi. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E veniamo al tema del nostro sondaggio di oggi, che riguarda la sospensione per 10 giorni del programma di Michele Santoro dopo l'ormai famoso vaffanbicchiere pronunciato in polemica con i vertici Rai. Vi chiedevamo, secondo voi è un provvedimento giusto? I no hanno prevalso con il 55%. Sentiamo comunque due opinioni, quella del senatore Alessio Butti del PDL e della Commissione Vigilanza Rai. Non c'è mica la licenza alla calunnia e all'offesa, non è un diritto quello di poter calunniare, offendere o presentare sempre verità distorte. E qui c'è un uso personale dello schermo Rai, cioè del servizio pubblico, che è pagato con il canone dei cittadini. Qui non c'è più rispetto, come diceva Zucchero in una famosa canzone. Qui si stravolgono sistematicamente le regole di una civile convivenza. In Italia c'è questa straordinaria ambizione, e l'esempio viene spessissimo dagli schermi Rai, ad essere impuniti. E sentiamo anche Riccardo Iacona, conduttore e autore di Presa Diretta. Beh, a manifestare perché lo sento come un attacco a tutti noi, a prescindere dall'episodio specifico e da tutte, diciamo, gli appunti che poteva prendere il direttore generale, diversi da questa sospensione così lunga. Se il risultato sarà che hanno zero, anche solo per una puntata o addirittura per due puntate, non andrà in onda, e io penso che questo è molto grave, no? Perché poi alla fine non si punisce Santoro, ma si puniscono i milioni di italiani che lo aspettano, si punisce la Rai, perché questo è il programma di informazione più popolare della Rai, si puniscono i suoi conti e si toglie anche un po' di credibilità al marchio. Cambiamo argomento con la cronaca, la dura sentenza contro un pedofilo. Quasi 18 anni di carcere, 206.000 euro di multa. È la più alta condanna mai inflitta nel nostro paese a un pedofilo italiano all'estero, che aveva però abusato anche di due minorenni di un ragazzino con handicap in Italia. Le indagini sono partite proprio in Italia e quasi per caso più di un anno fa. Un'anziana signora di Mortara, in provincia di Pavia, si era lamentata degli schiamazzi di un adolescente al cellulare che la polizia locale aveva considerato troppo costoso per un sedicenne. E infatti il telefonino era uno dei regali che l'uomo faceva alle sue vittime in cambio di prestazioni sessuali. Durante una perquisizione in casa sua, i carabinieri hanno trovato moltissimo materiale pedopornografico, compresi oltre 160.000 foto e 270 video hard dei suoi incontri sessuali con minorenni, anche bambini, thailandesi e brasiliani. Massimo Mannari, di 50 anni, per lavoro, infatti, viaggiava molto, faceva il cuoco sulle navi da crociera. Era già stato due volte in prigione in Thailandia per pedofilia. La condanna italiana, 17 anni, 9 mesi e 6 giorni, è ridotta di un terzo per rito abbreviato. Alice Cason, Radio 24, Il Sole 24 Ore. In chiusura, una notizia appena abbattuta dall'agenzia di stampa Radio Coro Il Sole 24 Ore. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge di stabilità presentato dal Ministro dell'Economia Giulio Tremonti. La riunione è durata circa mezz'ora, quindi probabilmente non attraversata dalle tensioni che si attendevano alla vigilia. È tutto dunque per questa edizione di GR 24, condotta e curata da Simone Spezia, coordinata da Maria Piera Ceci, in regia Paolo Corleoni. Il prossimo giornale radio alle 14. GR 24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.